Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Nella mente di tutti voi è comparso il traliccio bianco su un cielo di nuvole e la scritta centrale TV? Benissimo, perché è proprio di questo che oggi vogliamo parlare, della TV, e più precisamente del fatto che in estate sembra andare in vacanza anche il palinsesto. Quali tecniche di sopravvivenza adottare quindi nei confronti del vuoto di infotainment che si crea nel mese di agosto? Facile prendersela con la TV, direte voi, quando si vuole parlare della mancanza di intrattenimento, della mancanza di programmi interessanti e di informazioni super partes. Ma noi, di agosto, tecniche di sopravvivenza, ci vogliamo provare lo stesso, con degli ospiti che oggi ci aiuteranno a trovarne il lato positivo, senza arrivare al punto di dire che il vero scopo educativo della TV è spingere la gente a leggere di più o ad andare al cinema. Perché sì, in fondo la gente ha bisogno di guardare la TV. Un po' di sana passività in un mondo che ti vuole tirare sempre dentro, farti partecipare, interagire come quello dell'era di internet. Non abbiamo sempre tutti voglia di essere protagonisti, partecipi. A volte c'è bisogno di fare spazio alla passività, al vuoto, purché non diventi una scusa per lasciare spazio alla pigrizia del pensiero, eh? Passivi sì, ma attenti alla vigilanza del pensiero. Ascoltatemi! La televisione non è la verità! La televisione è un maledetto parco di divertimenti! La televisione è un circo, un carnevale! Una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone, domatori di leone e giocatori di calcio! Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere! La televisione è un maledetto parco di divertimenti che serve ad ammazzare la noia. Sì, e in agosto allora come si fa che la noia ce la dobbiamo ammazzare in altro modo? Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per la povertà di programmi in estate? Come ammazzate la noia senza le vostre serie TV preferite, senza le prime serate coi giochi a quiz, senza i programmi di approfondimento cui siete abituati nel resto dell'anno? 800 24 00 24 per parlare con noi e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Di quale programma sentite veramente la mancanza? Di quali conduttori, quali presentatori vi mancano davvero? E pensare che una volta persino la pubblicità faceva parte dell'intrattenimento. Se una volta si aspettava Carosello prima di andare a letto per i più piccoli o per guardarsi le mitiche scenette dei grandi dello spettacolo italiano per gli adulti, adesso quando c'è l'interruzione pubblicitaria si va a prendere qualcosa in frigorifero, si approfitta per fare pipì, insomma ci si alza dal divano. La pubblicità è l'interruzione e non la continuazione dell'intrattenimento con altri mezzi. E agosto sembra essere l'interruzione del palinsesto. Ma perché? Persino in America, che non è un paragone al quale vorremmo rifarci, però persino in America arriva la programmazione estiva sulle reti generaliste e loro ripropongono, invece di riproporre le repliche, delle serie nuove, sperimentano delle serie che hanno realizzato a basso costo. Insomma, l'estate per gli americani è un test per nuove idee. In Italia l'estate è il momento per fare invece il blackout di informazione e di intrattenimento, quello che abbiamo chiamato all'inizio della puntata col termine anglosassone infotainment, che va in vacanza proprio quando ce ne sarebbe più bisogno. Siete pronti? Mi raccomando, mettiamocela tutta! Ora c'è un diverso atteggiamento da parte degli spettatori nei confronti del cinema, e questo per merito anche dei nostri film. Tanti nostri colleghi... Ma quali colleghi? Non ho colleghi io. In Italia sono l'unico tra i nuovi registi ad avere talento. Voi siete aridi, non sapete cos'è il cinema. Siete corrotti dal vostro desiderio di potere, desiderio ingiusto, dato che siete anche cretini. No. Tempo, arbitro, tempo! Non mi va. È l'unica arma che abbiamo! A stronzo, e fammela pippa, non vedi sto a burina ancora parli, ma senta reggi in piedi, sei alto un cazzo e du barattoli con lo sputo da fuochi, ma va fanculo, va, non vedi che sei, un brutto stronzo. Votate, palloncini rossi in schiacciante maggioranza, la volgarità purtroppo ha trionfato ancora una volta, Michele Apicella esce vincitore dal primo confronto. Era Sogni d'oro di Nanni Moretti. La volgarità vince sempre. Era un talk show dove appunto si sfidavano per vedere se chi vinceva dei due. E forse è vero, agosto ci permette di prenderci una vacanza dalla volgarità di certi talk show che cercano nella rissa l'audience per intrattenerci, si fa per dire, tutto il resto dell'anno. Molto meglio rivedere un palinsesto da albori della TV, ripensandoci bene. Tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di infotainment, di vuoto nei palinsesti televisivi, di TV che rispolvera vecchi programmi o manda in onda solo repliche, pensando che nessuno sia davanti al piccolo schermo in agosto. 800 24 00 24 per parlare con noi e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Quale programma vi manca di più? Di quale conduttore vi sentite orfani in agosto? Ma che mattinata, che ancora un altro po' me la sarei dormita. Ma c'è gente che mi aspetta, che non vede l'ora, battere il ciak. Pensa che dolore se ci metti le dita, ma devo concentrarmi e la scena è partita. Se poi non mi ricordo oppure sbaglio la battuta, sono tutti costretti a fare un altro ciak. Ciak, passa la giornata. Agosto, vuoto televisivo ma affollamento di provini. Sì, perché in attesa che tutto riparta a settembre, agosto è il momento migliore per partecipare ai casting. Per quelli che nella TV non vedono il piacere della passività di esserne solo spettatori, ma puntano alla partecipazione, è il momento per cercare un aggancio con il mondo dello spettacolo. Ormai quella del provinante sembra essere diventata quasi una professione e l'estate è il periodo perfetto per reclutare i nuovi volti per le fiction, i nuovi concorrenti per i programmi TV che poi vedremo in autunno. Ma noi ve ne diamo alcuni, chissà che non vi venga voglia di provarci. Per esempio, chi vuole essere milionario, il quiz preserale di Canale 5, bisogna scrivere una email a castingmilionario@mediaset.it oppure chiamare lo 02 37 05 74 00. Per i soliti ignoti, condotto da Fabrizio Frizzi in onda su Rai 1, si può telefonare al numero di Risponderai 199-123-000 e c'è anche da compilare l'apposito modulo che si trova sul sito www.casting.rai.it. Oppure Verdetto Finale, il programma quotidiano di Rai 1 condotto da Veronica Maia, dove si affrontano dei casi giudiziari generalmente di natura civile e loro cercano avvocati, uomini e donne, appartenenti al Foro di Roma. Chi è interessato, un'email a casting.verdettofinale@gmail.com. Ma torniamo a noi, programmi che vanno in vacanze e programmi che invece non conoscono tregua. Ne parliamo con Roberta Serdoz, giornalista del TG3 e in onda con Linea Notte. Roberta? Buongiorno a tutti. Ciao Roberta. Ciao, non siamo andati assolutamente in vacanza per più motivi, perché intanto un telegiornale non smette di andare in onda ed è la cosa più difficile da spiegare ai figli. E poi diciamo è stato un agosto, anche luglio, non nascondiamoci, perché anche luglio è stato davvero complicato, un agosto di intenso movimento politico, per cui andare in vacanza quest'anno sarebbe stato più complicato che gli altri anni, indubbiamente. Quindi non ci sono stati problemi a riempire delle puntate di Linea Notte, immagino. No, guarda, noi avevamo pensato che nella settimana di Ferragosto avremmo potuto fare delle inchieste, dei reportage, c'è sempre meno spazio, no? In televisione per vedere degli approfondimenti di un certo tipo, quindi avevamo lavorato a giugno nella realizzazione di questi reportage inchiesta e poi però la politica in primo piano ci ha costretto a modificare quello che era la messa in onda e a rimanere stretti sulla notizia. Infatti Linea Notte è andata in onda per un'ora fino proprio alla settimana di Ferragosto. Abbiamo preso la mezz'ora di trasmissione solo ed esclusivamente dal 14 al 18, quindi 4 giorni soli limitati. Insomma, certo, certo, ma la prossima settimana sarai in vacanza tu, vero? Finalmente sì, finalmente si parte per le vacanze, giovedì 26 levo l'ancora, come si suol dire, e poi ritorno in conduzione l'8 settembre. Allora, noi ci chiamiamo Agosto Tecniche di Sopravvivenza. Qual è la tua tecnica di sopravvivenza per agosto? Vabbè che hai lavorato, ma appunto, qual è la tua tecnica di sopravvivenza? Siamo sopravvissuti bene in redazione perché eravamo pochi, anche se l'idea del direttore di Bianca Berlinguer era quella di non chiudere assolutamente baracche e burattini. Quindi siamo rimasti tutti in grande attenzione sulla politica, e la tecnica di sopravvivenza è stata quella un po' di fare squadra, forse più squadra del solito, perché siamo riusciti anche ad organizzare dei sushi a cena redazionale. Questo è il vero infotainment, quindi l'intrattenimento e l'informazione. Ma soprattutto quello che abbiamo messo insieme è stata la voglia di lavorare con maggior partecipazione, perché appunto quando si è leggermente di meno bisogna essere un po' più determinati e un po' più disponibili. Chiaramente. Prossima settimana quindi vacanze e poi ti rivediamo l'8 di settembre? L'8 di settembre di nuovo Linea Notte, io riparto con il telegiornale, ma noi ecco anche stasera siamo in onda e continuiamo a non mollare un attimo, un minuto di palinsesto. Benissimo, grazie mille Roberta e allora buone vacanze per la prossima settimana. Grazie, buone vacanze anche a tutti quelli che ancora non ci sono stati. Grazie, grazie a voi. Ciao. E 24. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di notizie e intrattenimento che in estate vanno in vacanza. 349-238-6666 per i vostri sms e 800-240024 per raccontarci in diretta le vostre tecniche di sopravvivenza per il vuoto nel palinsesto estivo e la mancanza di notizie interessanti, anche se, come ci ha raccontato la Serdos, quest'estate siamo stati fortunati, si fa per dire. Leggo alcuni dei vostri messaggi. Non si firma e dice: preferisco la programmazione estiva senza le trasmissioni stupide invernali. Oppure c'è un ascoltatore che ci fa dei complimenti e dice: io mi sento la vostra radio, ci sono dei programmi molto interessanti. Oppure un altro che dice: buongiorno Morena, la tendenza al blackout della programmazione comunque è un fenomeno recente. Anni fa c'era la vitalità in TV d'estate, ricordi i Giochi senza frontiere, Trois, De, Anne e Fischio del giudice? Certo che me li ricordo. Di solito in estate vanno in vacanza, oppure ci sono altre notizie che raggiungono il picco. L'estate richiama i rotocalchi, richiama le riviste di un certo genere, richiama il gossip. Il famoso sito dagospia.com, che proprio quest'anno ha festeggiato i suoi primi 10 anni, seguitissimo come quotidiano online mascherato da gossip o come gossip online travestito da quotidiano, dipende da che parte lo si vuole guardare, ecco, in estate raggiunge il massimo di visite. Perché c'è proprio una certa informazione che ha il suo picco in agosto e anche i fotografi si trasferiscono nei luoghi di villeggiatura più frequentati dai personaggi, dai VIP, per rubare qualche scoop. Ne parliamo col fotografo Umberto Pizzi. Buongiorno Umberto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come si sopravvive in estate al vuoto cosmico di notizie, ma che in alcuni casi invece è proprio il picco massimo? Guardi, innanzitutto questa è un'estate abbastanza calda, perché la politica ha trattenuto nelle città fino ai primi giorni di agosto, per cui è ancora già sta ripartendo, per cui non è che ci siano dei vuoti dell'informazione, e comunque anche se ci sono, poi ci sono le varie posti di mare o di montagna dove riempiono i giornali, ecco. A lei capita quindi di fare degli scoop proprio nei luoghi di vacanza? Sì, ma capita di fare, quello che noi chiamiamo scoop, ma insomma questa è stata un'estate abbastanza calda, perché gli scoop sono successi in città e comunque sono proseguiti nei posti di mare come Ansedonia e altre, la Sardegna e così via. Che di scoop non ne mancano, ecco. Certo, ma le è capitato di fotografare qualcosa di particolare quest'estate? Io fotografo, seguo molto anche la politica, perché la politica è diventata un argomento molto, molto pepato, e anche i giornali si buttano. Una volta non ci andavano in politica, guardavano sempre le notizie sui politici col naso un po'. Storcevano il naso, ma perché avevano paura. Adesso niente, pubblicano, si è visto un sacco di roba su Fini, anche su Berlusconi e poi su Bossi e così via. Io non è che vado più molto in Sardegna, però ho visto degli ottimi lavori che i miei colleghi hanno fatto giù in Sardegna. Poi anche in questo periodo si è sviluppato molto le isole eolie, dove avvengono un sacco di personaggi, un sacco di feste. La sua tecnica di sopravvivenza, se ne ha una per sopravvivere ad agosto? La mia tecnica di sopravvivenza è appunto il naso, dove sono gli argomenti. Certo. Beh, io la ringrazio allora, e viva che questo agosto non c'è stato il vuoto di informazione alla fine. Ma assolutamente, guarda, non è mancata, ne abbiamo anche troppo. Grazie mille, arrivederci. Prego, arrivederci. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 0024 per raccontarci in diretta come riuscite a sopravvivere alla mancanza dei vostri programmi preferiti, e 349 238 6666 per i vostri sms, perché oggi si parla di infotainment, che insomma in estate sembra andare in vacanza e la TV vive di repliche e di amarcord. Arrivano un sacco di vostri messaggi. Bruno dal mare mi scrive: che bello gustare artisti che per noi e per loro hanno studiato, hanno sofferto, speso risorse e adrenalina fruttando spettacoli ed emozioni. Che brutto invece accorgersi che c'è chi cerca spettacolo nell'ops di tetta sfuggita a una grande fratella. Ci sono altri che ci fanno dei complimenti. Durante i mesi estivi è meglio ascoltare la radio, non vorrei essere demagogico, ma la vostra radio la preferisco. Oppure sono stanco delle veline, delle liti politiche, detesto Bonolis e le sue trasmissioni, cancellerei Rai 3 e Rete 4. Mi mancano film western, gare di motori americani, cronache di viaggi dell'avventura estremi, telegiornali più precisi e maggiore informazione non politicizzata. Non si firma, dice solo saluti. Ma adesso sentiamo Fabrizio da Como. Ciao Fabrizio. Sì, ciao, buona giornata a voi. Ciao, buongiorno. Come sopravvivi a questo blackout? Beh, sopravvivo tranquillamente, devo dire la verità. Da un lato, bene, nelle ore diurne c'è la radio e ci siete anche voi, assieme a qualche altra radio ogni tanto per la musica. Quando arriva la sera, devo dirti la verità, io innanzitutto rivaluto un po' questa pausa estiva, per il semplice motivo che, per esempio, una persona come me, che ama le vecchie commedie, film degli anni 50, è la stagione giusta per poter rivedere in televisione alcuni film che altrimenti non vengono mai passati. Certo, questo è vero. E non ad orari impossibili per chi lavora come me. Quest'estate ho rivisto De Sica, ho rivisto Il bellissimo oro di Napoli con Nino Manfredi. Mm-hmm. Ecco, voglio rivalutarla questa stagione, devo essere questa sincero. Pausa. Questa pausa sì. ci dà la possibilità di vedere qualche film, soprattutto di qualità. Altrimenti il mio succedaneo è diventata la rete, è diventato il web. Ormai lì ci sono contenitori, il più famoso di tutti è YouTube, ma ce ne sono tanti altri dove andare a pescare programmi di informazione, programmi televisivi, avvenimenti sportivi e quant'altro, e poterseli vedere. Vero, che poi è un po' dove andiamo noi a saccheggiare quando facciamo sentire queste sigle o parliamo di questi film e mettiamo questi spezzoni. YouTube, è vero, è una fucina incredibile, sì. Devo ammetterlo, magari qualcuno mi criticherà, sono un grandissimo ammiratore, un grande amante di YouTube, come lo sono, ad esempio, non voglio fare pubblicità, però della piattaforma del digitale satellitare di Sky, che certo. Comunque ti dà un panorama che bene o male riesce ad essere abbastanza soddisfacente. Mi permetto solo una piccola osservazione: io sono reduce da un viaggio che ho fatto quest'estate in Canada e Stati Uniti. Amando la televisione, ogni volta che entro in un albergo la prima cosa che faccio, guardo un pochino i canali. Beh, guardando cosa trasmettono le stazioni canadesi o statunitensi in questo periodo, siamo fortunati. Non lamentiamoci più tanto dei programmi italiani, vi garantisco. Grazie mille. tranne il David Letterman Show, che guardo sempre con piacere anche in Italia, ma vi garantisco c'è una desolazione. Niente da invidiare. Grazie mille Fabrizio per le tue tecniche di sopravvivenza. Rivalutiamo questa stagione anche televisivamente. Benissimo, ciao, grazie. Grazie a voi, ciao, buona giornata. E oggi non potevamo non lanciare la nostra scheda storica con questa sigla. Agosto 1962. Solo 24 ore prima è avvenuto il primo collegamento televisivo in diretta tra gli Stati Uniti e l'Europa. Almeno per quel giorno qualcosa di nuovo sui nostri schermi. 25 agosto 1932. Amelia Earhart è la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo. Cosa non ci si inventa quando non c'era nulla in TV? 25 agosto 1939. Papa Pio XII alle ore 19 dal suo studio di Castel Gandolfo, collegato con la stazione Radio Vaticana, legge un messaggio per implorare la pace. Quelle sì che erano notizie. 8 tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla del blackout nei palinsesti estivi. 800 24 0024 per chiamarci in diretta o 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ne arrivano tantissimi, gente che ha le tecniche di sopravvivenza più incredibili. Questo ascoltatore ci dice: buongiorno Morena, io in estate ne approfitto per riseguire telefilm, film che guardavo negli anni 80. Ammetto che nel pomeriggio c'è una paralisi TV, ma serve per uscire o per riposare meglio. Sì, stiamo parlando proprio di questo, di quando l'intrattenimento televisivo viene meno, ed è in agosto, ed è durante la vacanza, quando magari qualcuno avrebbe anche voglia di vedersi vecchi film, di vedere vecchie serie televisive e di così lasciarsi un po' cullare da questo intrattenimento televisivo. Perché anche se la qualità di alcuni programmi televisivi in agosto peggiora, non dimentichiamoci che la TV è un'ottima terapia domestica ai malanni della noia agostana. Ognuno può scegliersi da solo il farmaco più adatto, andandolo a cercare nella sua personale videoteca. La televisione è anche questo. E quali sono le vostre tecniche quando in TV non c'è niente da vedere? Lo abbiamo chiesto e lo chiediamo a Vincenzo Mollica. Ciao Vincenzo. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, le tecniche di sopravvivenza per sopravvivere al vuoto cosmico che solitamente si trova in agosto. Intanto già l'idea della sopravvivenza è qualcosa che riempie la vita, pensare a come riempirla e a come sopravvivere è già un bel motivo di riempire, no? Del come riempire meglio in agosto e in altre anche stagioni dell'anno la nostra vita, ma credo che insomma intanto la televisione è vero che ha un vuoto di programmazione di palinsesti, però secondo me dovremmo muoverci come se fossimo degli esploratori in una strana giungla deserta, e perché si trovano alle 10 del mattino, magari a l'una di notte, si trovano dei film che abbiamo perso, e rivedere dei film fa sempre bene alla salute, soprattutto magari uno l'aveva visto a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, e ogni volta questa prospettiva cambia, magari vederla come ce n'ho io 57, ecco, mi fa riscoprire un film straordinario, un film che io per esempio ho riscoperto quest'estate, che l'ha trasmesso Rai 3, è stato Rocco e i suoi fratelli, che non vedevo da tanto tempo, sì. Ed era un film veramente straordinario, proprio straordinario, straordinario. E poi vero. L'altra tecnica di sopravvivenza che consiglio a tutti è, sono meno male, benedetto sia sempre colui che ha inventato i DVD, cioè la possibilità di avere non su dei VHS che si cancellavano dopo un anno magari, ma di poter portare a casa come un classico della letteratura, poter mettere a fianco di Omero, Dostoevsky, che sono due autori che io amo molto, che non si finisce mai di amare la lettura di questi libri, insomma mettere a fianco i Karamazov, La dolce vita di Fellini, che ho comprato in un DVD straordinario fatto dai francesi, che hanno fatto un bellissimo DVD. I francesi sono più bravi di noi a fare i DVD. Porca cane. Però hanno fatto una versione molto bella con dei documentari, sai quelle versioni di DVD piene di cose? Sì, insomma, che puoi scoprire anche dei retroscena, è vero, bello. Perfino dei documentari. fotografici con delle foto rare, insomma ecco. Poi ho comprato anche un altro DVD che consiglio, che è una versione diciamo un po' deluxe, di lusso, di Casablanca, dove c'è un cartone animato straordinario di Bugs Bunny che fa Humphrey Bogart in Casablanca. C'è la parodia di Casablanca fatta con da Bugs Bunny, credo che sia una delle sette più alte che mi sia capitato di vedere, non solo quest'estate, ma da molte estate a questa parte. Ma bellissimo, che dice, credo che questo sia l'inizio di una splendida amicizia, lo dice anche lui. Sì, ma soprattutto poi c'è tutto un rapporto con la carota, ma... molto divertente. Cioè lui a posto del whisky c'ha la carota, chiaramente. Già. Poi capito, c'è anche lì tutto, arriva, capito, anche lì la sua Ingrid Bergman, capito? Ma Sam bellissimo. Che non riesce a suonarla sta canzone. Bello. È tutto ribaltato come è piacevole che sia, insomma. Poi ci sono degli ottimi. Una cosa che per esempio ha riempito la mia sopravvivenza estiva è stata, l'avevo comprato quando erano usciti i DVD di Anthology dei Beatles, in cui George Harrison, che era ancora vivo, Ringo Starr e Paul McCartney raccontavano attraverso filmati rari ed inediti che avevano nel loro archivio, raccontavano in qualche modo la storia dei Beatles, e l'ho trovato non solo un bellissimo documento sotto il profilo musicale, ma uno straordinario documento sotto il profilo del costume, di come sono andate le cose, insomma, capire come era cambiato veramente, che insomma loro sono stati il segno di un cambiamento, forse del cambiamento musicale più straordinario che sia avvenuto nel Novecento, insomma, e di cui ancora oggi, insomma, continuano a vivere di grande, insomma, e lunga ricchezza, insomma. Sì, ma basta quindi essere molto curiosi, e di vuoto non ce n'è di intrattenimento ad agosto. Ma io credo che basta seguire delle passioni, delle passioni letterarie, cinematografiche, rimettersi lì, musicali, fumettistiche. Io sono una passione per il fumetto, mi sono riletto Corto Maltese, quella sta bellissima serie che sta tirando fuori il Corriere della Sera, e mi sto leggendo tutti questi volumetti, devo dire che sono una benedizione. Ugo Pratt è stata un'altra delle benedizioni con cui, come dire, hanno reso piacevole la nostra sopravvivenza in questo mondo. Beh, Vincenzo, grazie mille, consigli preziosissimi sicuramente per gli ascoltatori. Grazie a te, ciao. Ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:46, oggi ad agosto tecniche di sopravvivenza si parla di infotainment, di vuoto nel palinsesto, di mancanza di programmi divertenti, interessanti, coinvolgenti, proprio nel mese di agosto. 349-238-6666 per i vostri sms o 800-24-0024 per raccontarcelo in diretta. Qual è il vostro vuoto? Di chi sentite la mancanza? Perché della TV ad un certo punto abbiamo tutti bisogno, anche se con le dovute cautele. Hans Magnus Senzensberger, mi fa pena quando dice che la televisione trasmette il nulla! Ah! Ferma! Bomber, hai torto marcio! Non è vero che la televisione è un mostro che corrompe i bambini! Anzi, i bambini non si rincretiniscono! Davanti alla televisione bisognerà ad occhi aperti! Come un tempo sognavano ascoltando le fiabe e le leggende. La televisione che fa sognare i bambini era uno degli eccessi o delle iperboli classiche dei film di Nanni Moretti in Caro Diario, non so se ve lo ricordate, quando l'amico di Nanni Moretti sono arrivati alle Eolie, a Filicudi, e fugge da Alicudi perché non c'è la corrente elettrica, e lui è un nuovo malato di televisione e non può fare a meno di vedere la televisione. Era un critico pungente della TV e diventa in breve un dipendente, e lui dice sì, la televisione fa sognare. Molti italiani sognano nelle serie di agosto, per esempio con Da. Da lunedì a domenica il programma di Rai 1 che va in onda dopo il TG1 è un programma che conta più o meno tra i 4 e i 5 milioni di spettatori, che sono dei numeri altissimi per il mese di agosto, e lo fa esclusivamente con materiale d'archivio, ovvero con i ritagli di alcuni dei protagonisti, personaggi intramontabili dello spettacolo italiano, come per esempio Walter Chiari, i cui monologhi fanno registrare il picco di ascolti, perché c'è bisogno di questo recupero di vecchi personaggi. Dopo un TG si ha bisogno di allegria, quindi non arrabbiatevi se vostro marito non verrà a letto come sempre dopo il TG. TG. tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di come sopravvivere al vuoto che c'è nei palinsesti estivi e ne parliamo con Francesca. Ciao Francesca! Ciao Morena, come stai? Tutto bene? Ciao, bene, tu? Benissimo, grazie. No, dicevo alla tua collega che ho approfittato di questo vuoto di palinsesto per leggere tantissimo. Mi sono letta 10 romanzi bellissimi, tra l'altro che mi passava la mia vicina di casa in Sardegna, a getto continuo. Ma 10 romanzi? Scusa? 10 romanzi in un mese? No, di più, praticamente metà giugno. Vabbè, giusto, finora, tutta l'estate, giustamente. Non ho ancora finito adesso, che ho cambiato posto di villeggiatura, ma sono ancora in villeggiatura. E niente, sono stata contentissima perché durante l'anno non riesco a leggere così tanto, proprio anche per colpa della televisione, perché poi alla fine i programmi che mi interessano si protraggono fino a tardissimo. Poi vado a dormire, riesco a leggere 3-4 pagine. il libro sul comodino, quello classico, esatto, che rimane lì tutto l'inverno. Lo stesso. Quindi 10 libri, bravissima, sì, Francesca. 10 libri. No, veramente, poi tra l'altro tutti belli, perché questa mia vicina aveva dei romanzi belli, anche magari non recentissimi, però che ho riscoperto. Bene, buona tecnica di sopravvivenza. Ti ringrazio. Grazie mille. Ciao Francesca. Buon lavoro e complimenti per la trasmissione. Grazie mille, ciao. E adesso... E adesso le attesissime tecniche di sopravvivenza. Uno. Dopo il quinto, la TV non è più quella di una volta. Detto da vostro figlio, è il caso di spegnerla e andare assieme al cinema. 2. Se accendete inavvertitamente la TV in agosto e vedete solo film e sketch in bianco e nero, non temete, non siete voi ad essere tornati indietro nel tempo. Non disperate se anche guardando un TG avete la stessa sensazione. Le cose cambiano così lentamente che sembra tutto fermo. 4. Evitate di acquistare una TV di ultima generazione proprio prima dell'estate. La dovrete lasciare spenta almeno fino all'arrivo dell'autunno. 5. Se proprio la volete comprare, evitate che sia una di quelle ultrapiatte, se no dove la mettete la gondola con centrino per giustificare la presenza di quell'elettrodomestico spento? La frase del giorno per lasciarci è di Orson Welles. Odio la televisione, la odio tanto quanto le noccioline, ma non riesco a fare a meno di mangiarle. Siamo arrivati quasi alla fine anche oggi. Oggi si stava parlando di infotainment e di come sopravvivere al vuoto in televisione, al vuoto di notizie, di programmi interessanti. Ma facciamo così una rapida carrellata, per esempio, su che cosa c'è stasera in televisione per chi volesse guardare la televisione. Allora, su Rai 1, 21:20, c'è un film, Puntata in volo. Alle 20:45 su Rai 2, calcio, Champions League, ritorno, Auxerre, Zenit, San Pietroburgo. Rai 3, 21:10, Amore criminale, conduce Camilla Razmovic. Canale 5, 21:20, un altro film, Il bacio che aspettavo. Italia 1, 21:10, L'uomo di casa, altro film. Rete 4, 21:10, altro film, La sconosciuta. Sulla 7, alle 21:10, Crossing Jordan, un telefilm. Leggo qualche sms che ne sono arrivati tantissimi. Rossella mi dice, sopravvivo benissimo, non possiedo il televisore. Oppure mi dice Gianni, quest'estate mi è capitato di rivedere il mitico Polvere di stelle su Rete 4. Il pomeriggio che durante l'anno una persona non riesce a leggere, ho riscoperto i fumetti di Corto Maltese di Tex, perché prima abbiamo sentito Vincenzo Mollica che ci diceva che appunto è l'occasione per fare delle cose nuove. Non mi resta che salutare e ringraziare in regia Vittoria Mussini, Laura Faggin e Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani con una nuova puntata e domani parleremo di come sopravvivere all'inizio del campionato di calcio, visto che il prossimo fine settimana ci sono le partite. Sarà la puntata dedicata forse alle donne, forse no, fuori dai luoghi comuni, ma ormai nessuno è esente dai luoghi comuni. A domani. Noi commerciamo illusioni. Niente di tutto questo è vero. Ma voi tutti, per state seduti là, giorno dopo giorno, notte dopo notte, di ogni età, razza, fede, conoscete soltanto noi. Già cominciate a credere alle illusioni che fabbrichiamo qui. Cominciate a credere che la TV è la realtà e che le vostre vite sono irreali. Voi fate tutto quello che la TV vi dice. Vi vestite come in TV, mangiate come in TV, tirate su bambini come in TV, persino pensate come in TV. Questa è pazzia di massa, siete tutti matti. In nome di Dio siete voi altri la realtà. Noi siamo le illusioni.